Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Siamo giunti con quella di oggi alla puntata numero 180 del Soundcheck di Radio 24, prova del suono. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera al nostro Francesco Tromba. Come stai? Tutto bene, grazie. Sei pronto per una bella scorpacciata di musica? Prontissimo. Ti voglio anticipare che più tardi, nella seconda parte, dopo il GR delle 20, abbiamo una musicista. Sarai contento perché ci frequentano soltanto artisti pazzi e uomini. Invece che stasera abbiamo anche una bella ragazza, bravissima musicista, sassofonista, e naturalmente tu sai, mio caro Francesco Tromba, che per me sarà naturale fare la battuta classica del musicista. Ovvero? Come ovvero? Lei suona il sax e lui la tromba. No, scusami, me l'hai tirata fuori di bocca. Certamente eviterò di fare la battuta quando sarà presente nello studio, qua nel Groovemaster Studio, per il soundcheck, la bravissima Milena Angelè, insegnante di musica, che ha pubblicato da pochissimo un album molto interessante. Si parla di jazz contemporaneo con bravi musicisti italiani, ma ne parleremo con lei dopo il GR delle 20. Intanto ci prepariamo ad affrontare una settimana piena di musica e piena di concerti nel nostro paese, anche in giro per l'Europa e per il mondo. Per esempio, c'è un artista che noi segnaliamo da un po' di tempo, un artista americano, un bravissimo cantante, polistrumentista, che ha studiato lirica, anche se poi vocalmente si dedica a faccende che riguardano R&B e jazz contemporaneo, un signore che si chiama Bilal Oliver. E sì, perché sta per arrivare Bilal Oliver in Italia con una bellissima band, mi auguro per lui e soprattutto tutto per gli appassionati di musica che andranno a seguirlo in questa unica data italiana che ci sarà a Milano. Quando, mio caro Francesco? Sarà il 1° novembre al Centro Bico. Ok, quindi a Milano per andare a seguire Bilal, che comunque è in giro in Europa, mi pare. Sì, questa sera suonerà Istanbul al Babylon. Beh, è troppo distante per andarla a vedere. Però se per caso qualcuno ci sta ascoltando magari via streaming e si trova a Istanbul, bellissima città, può anche andare a ascoltare il sound tipico di Bilal, che coniuga un po' tutto, no? Perché ti piace Bilal? Sì, perché riesce comunque a inserire nella sua musica hip hop, soul. È come gli artisti contemporanei devono fare oggi, e infatti è anche molto richiesto nell'ambiente del jazz. Ultimamente ha partecipato anche alla registrazione del batterista Otis Brown III, bellissimo disco di jazz, collaboratore di Robert Glasper. Tra l'altro, un po' di tempo fa sono andato a vedermi una lezione di musica che ha tenuto Robert Glasper alla Berklee School of Music di Boston, in internet, parlando proprio in una classe di cantanti, come esempio vocalist contemporaneo citava proprio Bilal, e soprattutto si lamentava per il fatto che le cantanti di jazz, quando si presentano in jam session, propongono sempre delle ballad, chiedono sempre perché non facciamo mai Funny Valentine. E lì Robert Glasper ha iniziato a ironizzare sul ruolo proprio del cantante di jazz contemporaneo, che invece musicalmente deve essere onnivoro, così come siamo noi. Allora diamo il via alla puntata ascoltando un brano tratto dalla prima pubblicazione di Bilal, una traccia intitolata Home. Il brano è stato realizzato nel 2001, quindi apriamo con Bilal al soundcheck di Radio 24. E questo il suono di Bilal, tratto dal primo album First Born Second del 2001, ma ultimamente Bilal è entrato in studio portando con sé gli amici di sempre, fra i quali anche il pianista Robert Glasper, per realizzare A Love Surreal. Vi ricordiamo che Bilal sarà in concerto con un'unica data in Italia, a Milano. Esattamente dove, Francesco? Al Centro Bico. Ecco, questo concerto è organizzato da Relife, che tra l'altro porta in Italia fra qualche giorno anche un altro signore che presentiamo fra pochissimo, che è il figlio di Bobby McFerrin, già segnalato qui al Soundcheck di Radio 24, ovvero Taylor McFerrin, ma ne parliamo fra pochissimo. Allora, che facciamo? Vogliamo ascoltare Bilal nell'ultima impresa? Sì, vediamo. Questo è un po' più complesso come suono, un po' meno contemporary R&B, un po' più ambient, però la sua voce, insomma, dà poi la pasta sonora ai suoi progetti. Bilal con Winning Hand da A Love Surreal al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Lo avevamo detto, Bilal ha partecipato più volte ai concerti di Robert Glasper e è presente anche nelle due ultime produzioni di questo formidabile pianista, che ha cambiato un po' il sound del contemporary R&B e del jazz di oggi. Quindi Robert Glasper con i suoi Experiment e la partecipazione di Bilal e Jasmine Sullivan in questo brano intitolato You Are My Everything da Black Radio, progetto numero 2 per Robert Glasper. E anche Robert Glasper sta per arrivare in Italia con vari appuntamenti, intanto stanno per partire due festival interessanti: il Festival Jazz di Bologna, dove ci sarà Robert Glasper con i suoi Experiment, e poi più in là, fra un paio di settimane, il Festival Jazz di Roma, che abbiamo presentato con Mario Ciampai, il suo direttore artistico, e anche in quell'occasione arriverà Robert Glasper, però con un progetto diverso, in un duetto con l'altro pianista della nuova generazione, Jason Moran. Robert Glasper al Festival di Bologna. Francesco Tromba, quando inizia il Festival a Bologna e chi ci sarà? Inizia il 28 ottobre, durerà fino al 22 novembre. Ci saranno Didi Bridgewater, eccola, anche lei al Festival Jazz di Roma, Bill Frisell, John Scofield, Charles Lloyd, Scofield con il trio Medeschi, Martin e Hood, esatto. Quindi da non perdere. Sì, anche Kenny Barron, che anche lui insieme a Dave Holland sarà al Festival di Roma. Sì. I Romi, Steve Coon, ad esempio, anche Anat Cohen, John Taylor, questi sono solo alcuni degli artisti. Puoi ripetere quando inizia il Festival a Bologna? Il 28 ottobre. Ecco, poi varie location, teatri, club, sì, insomma, la città. Si sposterà anche a Ferrara per alcuni appuntamenti. La città verrà colorata di jazz, di bellissime note. Allora, parlavamo di Taylor McFerrin, sì, perché oggi vi vogliamo presentare, vi abbiamo presentato in questa prima parte già Bilal, e adesso invece passiamo al figlio d'arte Taylor McFerrin. Certamente vocalmente non possiamo paragonarlo al papà, che è immenso e infinito nella sua vocalità estesa e onnivora, ma Taylor McFerrin negli ultimi anni si è fatto apprezzare per questa capacità di riuscire a produrre e a realizzare DJ set all'impronta. Infatti arriverà a Roma proprio con il suo, non so se chiamarlo DJ set, perché non utilizza, credo, vinile e dischi, ma fa un one man show, quindi da solo, con campionatori e tastiere camere, microfoni e vari effetti, darà vita al suo spettacolo, spettacolo con il quale è in giro da un po' di tempo in tutta Europa e quindi approda in Italia, sempre per Real Life. L'organizzazione del concerto, dove suonerà Taylor McFerrin? Allora, sarà in Italia dal 5 all'8 novembre e partirà da Bologna, suonerà il 5 novembre al Locomotive Club, poi il 6 sarà qui a Roma, a Rialto. Invece il 7 sarà all'Eremo Club di Apulia e finirà l'8 novembre a Milano, anche lui al Circolo Bico. Ecco, io ho parlato con gli amici di Real Life che organizzano la tournée e, per chiedere se ci fosse una prevendita in atto, e mi ha detto per esempio per il concerto a Roma al Rialto non c'è prevendita, quindi noi vi presentiamo il concerto di Taylor McFerrin per darvi la possibilità di andare direttamente al Rialto a procurarvi i biglietti, perché poi non ci sono tanti posti. Sì, anche bisogna andare per tempo, anche perché appunto la location non è proprio enorme, quindi. Allora, polistrumentista, vocalist, esperto di beatbox, infatti in questo brano, che poi è tratto dal suo primo EP intitolato Broken Vibes, Taylor McFerrin realizza la ritmica utilizzando la sua voce e quindi la sua bocca. Taylor McFerrin al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Il nostro Taylor McFerrin in veste di producer ma anche di beatboxer con Nash in Go With Love qui al soundcheck di Radio 24. Allora, abbiamo presentato i concerti di Bilal che arriva in Italia a Milano, poi Taylor McFerrin, abbiamo già parlato che sta per iniziare il Festival Jazz di Bologna, arriverà prestissimo il Roma Jazz Festival. Ma tornando a Taylor McFerrin, col quale vogliamo chiudere questa prima parte del soundcheck, perché poi vi ricordo che dopo il GR delle 20 sarà nostra ospite una bravissima musicista italiana, Milena Angelè, con il suo sax tenore per presentarci Resiliency, nuova pubblicazione per lei con ottimi musicisti, ma ne parleremo proprio con Milena, mio caro Francesco Tromba, e devi stare attento perché potresti anche innamorarti, visto che tu fai tromba per cognome e lei suona il sax e sai che i due strumenti vanno molto d'accordo insieme. E io sto anche imparando a suonare la tromba. La tromba, che peccato, che guaio. Allora, Taylor McFerrin ha pubblicato Early Riser da pochi mesi ed è proprio per questo motivo che arriva in Italia con una serie di date, di appuntamenti che abbiamo già dato, però noi ricordiamo quella al Rialto qui a Roma, perlomeno perché è quella che noi andremo a vedere quando? Il 6 di novembre. Sì, mi il 6 pare. Novembre. E comunque si possono trovare tutti gli appuntamenti nella pagina Facebook di Real Life che organizza il tour in Italia. Allora, che ha combinato Taylor McFerrin in Early Riser, Francesco? Innanzitutto io volevo chiedere, sai a quando risale la prima apparizione discografica di Taylor McFerrin? È una domanda trabocchetto? Sì. No, non lo so, 5-6 anni fa. No, in realtà appena nato, nel 1982, suo padre registrò i suoi guaiti da bambino, sì. come fece Stevie Wonder in Isn't She Lovely. Esatto. E quindi proprio un figlio d'arte, sì. Ha iniziato prestissimo. E in realtà poi diciamo si è un po' perso dal punto di vista discografico, perché non ha pubblicato quasi nulla fino a questo Early Riser. Eh sì, che è il primo album credo da solista, poi sì. Ha prodotto, ha collaborato. Per questo album ha deciso appunto di abbandonare i suoi studi di pianoforte, perché lui nasce come pianista, sì. Quindi ha deciso di spostarsi più su sonorità elettroniche, hip hop, quindi ha cercato di coniugare la sua voce a comunque tutta la sua esperienza elettronica che ha avuto in questi ultimi 3-4 anni. E quindi Early Riser per Taylor McFerrin, album prodotto nel suo studio casalingo con la partecipazione di alcuni amici, e qui Taylor McFerrin se la suona e se la canta in Floresia, qui al soundcheck di Radio 24, dopo il GR delle 20, Milena Angelè, nostra ospite. We both understand that we are the reason for one another. Soundcheck. Il suono della musica. Bene, e come annunciato, dopo il GR delle 20 arriva la nostra ospite molto solare, la trovo oggi sorridente, la sassofonista e insegnante di musica Milena Angelè. Benvenuta al soundcheck di Radio 24. Milena. Grazie. Allora Milena, sono contento, tu hai appena pubblicato questo album, si intitola Resiliency, un titolo importante, la resilienza, ovvero la resistenza dei materiali all'impatto. Perché? Sì, che è stata anche applicata adesso alla psicologia. Alla psicologia. Sì, quindi la capacità di resistere agli urti e di uscirne anche magari modificati positivamente. E tu come ne sei uscita dopo aver realizzato questo disco? Bene. Beh, se sei qui, bene, ti vedo sorridente, sei contenta. Allora, fai musica da tanti anni. Hai scelto il sax tenore come compagno anche per la vita? Sì, assolutamente sì. Quindi non ha fidanzati, Francesco? Allora vediamo cosa si può. E tu con quel cognome ci vai a nozze con la sassofonista? No, non rifà. Prima ho fatto una battuta, Milena, non la voglio rifare, ma te che sei una musicista di jazz la conosci benissimo. Mm-hmm. Perché lui si chiama Fatromba di cognome. Ah, okay. Hai capito? Immagino. Tutto. Va bene, Duke Ellington diceva una cosa: i musicisti di jazz sono quelle persone con le quali non dovreste mai fare uscire vostra figlia. E quindi nel tuo caso? Forse è meglio che Francesco non esca con me. Ah sì, vedi, hai capito? Beh, però lui è un temerario, perché è un calabrese al peperoncino. Ah, vabbè. Frequento anche qualche musicista, però diciamo non del suo calibro sicuramente. Milena, da quanto tempo fai musica? Come ti sei avvicinata al sax tenore? Ho iniziato a 11 anni con il pianoforte e poi a un certo punto, credo forse vedendo il sassofonista degli Spandau Ballet. Addirittura? Sì. Quindi diciamo non un colosso da un punto, hai capito dopo che era un pippone terribile, sì. No? Diciamo la verità. C'era poco da sentire però in quel periodo quando ero piccola, quindi insomma. E a 18 anni ho cominciato con il sassofono, però in realtà mi sono avvicinata poi seriamente, diciamo, allo studio intorno ai 24, quindi poi ho smesso, ripreso, tanti dubbi, tante insomma insicurezze. Quindi, ascoltando il sassofonista degli Spandau Ballet, ti sei avvicinata al suono dello strumento, sì, più che altro. Poi quando hai scoperto Dexter Gordon e Sonny Rollins hai capito che suonare il tenore è un'altra cosa. Beh, volendo sì. Allora, ascolti di tutto o sei un integralista da un punto di vista musicale? Comincio con ascolti di tutti i tipi sin da quando ero piccola e continuo in questo senso. Ascolto anche la radio, purtroppo certe volte rimango un po' delusa, però insomma cerco di... Allora, ti faccio ascoltare, prima di passare alla tua musica e al suono più jazz, ti faccio ascoltare un artista che si chiama Fatima, svedese ma non con i tratti somatici delle svedesi, bionda con occhi azzurri, non si sanno le origini, vive in Inghilterra, fa musica molto particolare, nuovo album Yellow Memories, il brano si intitola Laneta, dove coniuga tutto, addirittura poliritmia vocale e sound molto dub e contemporary. Che ne dici di Fatima, Francesco Tromba, velocemente? Mi piace tantissimo questo pezzo. Mi piace perché sei esplicito, pam, un colpo e via. Fatima con Laneta al soundcheck di Radio 24. Standing on the edge of something not so very beautiful, knowing what we know it ain't enough to see all day. Living here on earth can sometimes feel so very heavy. A million waterfalls can make up for a lake. You look above, you dream away and say, when will I make it? That's when you need to recognize the fool that you are. Soundcheck, il suono della musica. I don't want to be lonely tonight. No, no. Please don't let me be lonely tonight. Due colossi insieme qui al soundcheck, James Taylor, autore di questa bellissima canzone Don't Let Me Be Lonely Tonight, qui nella versione jazz realizzata alcuni anni fa dal sassofonista Michael Brecker, purtroppo scomparso. Io ricordo intorno alla metà degli anni Ottanta, con una comitiva di musicisti di jazz italiani andammo a vedere le sue imprese quando militava con gli Steps Ahead lì a Rimini Riccione, concerto degli Steps Ahead con Mike Manieri al vibrafono, comitiva in macchina nella mia 127 Panorama azzurra, con Roberto Gatto, Maurizio Gianmarco, Francesco Puglisi e altri amici. Nostra ospite Milena Angelè per presentare qui al Soundcheck Resiliency, questo è il titolo del nuovo album, con la partecipazione di bravi musicisti e colleghi. Chi sono? Allora, Edoardo Ravaglia al pianoforte, e Riccardo Gola al contrabbasso, Fabio Sasso alla batteria e su alcuni brani Enrico Bracco alla chitarra. Bravissimo Enrico Bracco, quanto mi piace questo ragazzo alla chitarra, e credo che sia veramente uno dei musicisti da tenere d'occhio. Poi Fabio Sasso è un amico, tra l'altro direttore artistico di un bel festival che si fa a Gaeta. Dove abbiamo suonato infatti quest'estate. Avete suonato quest'estate, eh sì, perché i musicisti di jazz fanno questo, al contrario di quelli che seguono il versante pop. Prima di registrarlo il disco, addirittura i brani li suonano per provarli e verificare poi sul campo che cosa succede. Qual è il concept di Resiliency, Milena? L'ho dedicato prima di tutto, essendo il mio primo disco, a nome mio, a me stessa e alle esperienze di vita. Oh, viva la faccia! Nel senso che comunque erano tanti anni che volevo fare questa cosa e finalmente ho avuto il coraggio, insomma, di mettere su questo progetto, specialmente perché comunque circondata da persone che non solo musicalmente ma anche umanamente mi hanno fatto sentire comunque tranquilla. E quindi il concept è questo: la resilienza per me è anche l'esperienza che ho vissuto nella mia vita con la musica, e quindi la capacità comunque di vivere difficoltà, di resistere comunque a situazioni difficili, anche diciamo psicologicamente, emotivamente, conflitti con la musica, per cui certe volte smesso, ripreso, eccetera, eccetera, di resistere a tutto questo e di magari ecco nascere, di rinascere in qualche modo anche trasformata positivamente. E penso che sia accaduto, perché poi in realtà questo è successo, è uscito questo disco. Beh, poi frequenti un ambiente musicale che è fatto, diciamo, al 90% da maschiacci. Da maschiacci, anche le sassofoniste che comunque ci sono adesso sono tutte molto brave, ma sono sempre pochissime. Pochissime, ma comunque con una tendenza, diciamo, alla tecnica dello strumento che è diversa da quella che ho. Vediamo, fra le italiane, io ricordo, vabbè, Ada Rovatti che vive negli Stati Uniti, moglie di Randy Brecker, sì. Ma c'è anche a Roma Cristiana Polegri che certo, suona il sassofono, canta anche molto sì, bene. Sì, sì, poi sì, c'è sì. Melissa Aldana, nuova sì, star del sì, jazz contemporaneo. E insomma, potete dire la vostra tranquillamente. Sì, spero ognuna con la propria voce, insomma, con la propria personalità. Allora, vogliamo sentire che cosa combinato Milena Angelè con Resiliency. Io vorrei presentare, se non ti dispiace, una tua composizione. Sì. E il brano mi è piaciuto veramente tanto, una bellissima melodia, armonicamente interessante, veramente complimenti. Grazie. E infatti se sei qui è proprio perché il disco ci è piaciuto molto. Grazie. Milena Angelè al soundcheck di Radio 24 per presentare il nuovo album. Il brano, una sua composizione, si intitola Sliding. Soundcheck, il suono della musica. Thank you. da un album intitolato Elastic del 2002 per la Warner Bros. Il brano era The Birthday Song, forse una composizione che Joshua Redman ha scritto proprio per sottolineare musicalmente il giorno del suo compleanno o per festeggiare qualche amico. Milena Angelè, sassofonista, tenore, ospite del Soundcheck, che ha un suono. Quanto è importante il suono per un musicista e soprattutto per un musicista di jazz che suona il tenore? Per quanto mi riguarda è al 90%, nel senso che il suono è fondamentale. La ricerca del suono, del tuo suono, ti permette poi di far sì che tutto il resto accada in maniera naturale. Però se non mi sento in sintonia con il mio suono, lì allora sono problemi. E devo dire che questa cosa l'ho capita anche nel modo di suonare, che non è, diciamo, particolarmente virtuoso da un punto di vista tecnico. Tecnico-strumentale. L'ho molto preso da sassofonisti come Charles Lloyd, per esempio, che nel corso del tempo sono diventati sempre più rarefatti come modo di comunque di interpretare e di comunicare, attraverso, quindi è proprio una questione di sensibilità, di sensazioni, di suoni che comunque, diciamo, ci sono nell'aria e che dovrebbero arrivare come emozioni al pubblico. C'è una cosa bellissima questa, che ha raccontato Benny Golson, tuo collega sassofonista, che quando erano giovanissimi insieme a Coltrane, vivevano nella stessa città, andarono a vedere un concerto di Charlie Parker, lo avvicinarono e gli chiesero consigli su come settare lo strumento, che tipo di becco, di ancia, che tipo di strumento, come settarlo e così via. Fatto sta che dopo una settimana si rincontrarono e Benny Golson chiese a Coltrane: allora hai fatto le modifiche che ti sono state consigliate da Charlie Parker? E ha detto: sì, ma non è successo nulla. E quindi il suono non viene dallo strumento, ma proprio dall'approccio e dalla spiritualità anche di un musicista. Sono d'accordo, sì. Allora, Milena Angelè, nostra ospite. E tu insegni musica in una scuola, mi ricordi come si chiama la scuola? Artidee, Laboratorio della Musica delle Arti. Allora facciamo una cosa, ascoltiamo un altro brano tratto da questo disco Resiliency e poi parliamo della scuola e della tua attività come insegnante. Il brano che ha scelto Milena è Sunny, una composizione di Bobby Hebb, un classico del repertorio soul, rivisitato soprattutto da un punto di vista armonico, perché la melodia è quella originale. Sì. Qui devo ringraziare Edoardo Ravaglia, il pianista, perché l'arrangiamento comunque è suo. Ok, Milena Angelè al Soundcheck di Radio 24 con Sunny. Soundcheck, il suono della musica. Ti puoi lamentare, ti ho omaggiato con sassofonisti bravi e anche belli. Joshua Redman è un bel ragazzo, Michael Brecker non era male, aveva ragazza, un'amica che era proprio innamorata perdutamente di Michael Brecker, specialmente nei look di quando erano Brecker Brothers, con i Brecker Brothers, un po' cattivo. E questo invece è Jacques Schwarzbart, che abbiamo presentato più volte, anche lui con una faccia interessante, un bel fisicone, anche lui musicista che si dedica molto spesso alle vicende del contemporary R&B, quindi onnivoro musicalmente, da jazz racinaiti, con la voce di Stephanie McKee in Contredanse, a chiudere quasi questo appuntamento del Soundcheck. Ma naturalmente abbiamo ancora un po' di tempo per ascoltare un altro brano tratto da Resiliency. Questo è il titolo dell'album di Milena Angelè, nostra ospite, proprio per parlare di musica e raccontarci di cosa combini nella tua scuola, Arti Idee. La scuola mi permette, mi sta permettendo di comunque vivere e condividere la mia passione per la musica con gli altri, con, dai piccoli agli adulti, e di vivere esperienze che comunque arricchiscono loro e arricchiscono ovviamente me. E ho avuto la possibilità anche di essere direttore artistico di un festival per un paio d'anni, e questo mi ha permesso proprio di far sì che ci fosse anche un ponte fra gli allievi della scuola, i musicisti che comunque potevano condividere le loro esperienze con gli allievi, insomma creare, diciamo, una situazione, una dimensione a 360 gradi in qualche modo. Allora vediamo che sensazioni ci provoca l'ascolto di Federica e la pioggia, un brano tratto da Resiliency, brano scritto da Milena Angelè che già sentite in sottofondo. Noi vi salutiamo, grazie Milena. Grazie, perché a torna voi. A trovarci quando vuoi, magari. Grazie. Ti porti lo strumento e facciamo una jam, magari. Ecco, tromba, lascia stare, va. Allora ci sentiamo domani noi invece, sempre alle 15:30 prima parte, poi alle 19:15 una seconda parte tutta jazz qui per il soundcheck su Radio 24. A tutti voi una buona serata da Gegè Telesforo, grazie a Milena Angelè, a Francesco Tromba. Il brano è Federica e la pioggia.